Europa 24. Benvenuti a questo appuntamento con Europa 24, oggi in diretta da Trieste, il capoluogo giuliano che torna, o meglio continua, rinnuova il suo luogo, il suo essere vero e proprio crocevia di incontri e scambi commerciali. Oggi infatti a Trieste, alla stazione marittima in particolare, dove mi trovo, l'atto conclusivo del tour italiano della campagna europea Dialogo con il cittadino. Dunque il vicepresidente della Commissione europea Viviane Reding, accompagnata, affiancata dal ministro delle politiche comunitarie del governo Letta, Moavero Milanesi, a rispondere ai cittadini. Questo è infatti il settimo appuntamento di una serie iniziata ormai 8 mesi fa di incontro, di botte e risposta appunto sulle grandi tematiche, naturalmente il lavoro, la sicurezza, la giustizia, insomma i temi caldi dell'attualità europea, il tutto in una prospettiva che naturalmente anticipa quello del voto di primavera, rinnovo del Parlamento, che come sapete insomma potrebbe essere il primo a eleggere direttamente il nuovo presidente della Commissione. Trieste anche ovviamente diventa un luogo centrale per segnalare, manifestare e raccontare da parte della società civile quelli che sono i problemi e le preoccupazioni. In particolare qui proprio di fronte alla stazione marittima si sta raccogliendo una folla per manifestare contro l'ipotesi dei rigassificatori qui nel capoluogo giuliano, ma ci sono anche presenze naturalmente dai paesi confinanti, quindi l'Austria da un lato, ma soprattutto la vicinissima Slovenia, la Croazia. La Croazia è entrata a far parte dell'Unione Europea solamente il 1° luglio di quest'anno, è già di fronte a un dossier piuttosto delicato che riguarda proprio la commissaria Reding e che in particolare si concentra sul tema dell'estradizione e appunto degli automatismi legislativi e legati appunto agli arresti all'interno dello spazio europeo. Ecco, molti temi, abbiamo parlato naturalmente con Viviane Reding appena appunto prima di questo incontro, innanzitutto le abbiamo chiesto di commentare e riflettere un po' questa attualità per cui c'è un grande dibattito insomma su più Europa, meno Europa, la questione è calda, la questione è stata affrontata anche dal ministro degli esteri italiano Emma Bonino, che ha proposto quella che ha definito un federalismo light. Sentiamo cosa dice Viviane Reding. Absolutely, because there are things you can better do at the regional. Assolutamente sì, ci sono alcune cose che si possono fare a livello nazionale, magari addirittura a livello locale, ma se invece parliamo di controllare l'operato delle banche, abbiamo imparato dolorosamente che può essere fatto solo attraverso un organismo forte e indipendente, che tuteli veramente il cittadino che paga le tasse e che possa dare un early warning se qualcosa prende una brutta piega. E questo, d'altra parte, è anche quello che facciamo sui conti pubblici nazionali, mettendo in guardia su decisioni che possono essere dannose. È dunque quello che ha fatto il commissario Olli Rehn? Crede dunque che questo sia parte integrante dei compiti della Commissione? È proprio ciò che c'è di veramente nuovo, che abbiamo imparato da questa enorme crisi che ci è piombata sulla testa e che non ha precedenti. E vede, i segnali che ci avrebbero potuto mettere in allarme non sono stati riconosciuti come tali, ma abbiamo imparato la lezione e ora abbiamo messo in atto istituzioni e strumenti che ci possono permettere di prevenire nuove crisi, di capire i segnali e di fare in modo che una crisi possa essere contrastata fin dai primi segnali. Questo era dunque Viviane Reding, vicepresidente della Commissione Europea, responsabile dei temi della giustizia. Naturalmente, come vi ho detto, tra poco, ormai tra circa un'ora, inizia questo dibattito, questo botta e risposta con la cittadinanza, ma con la presenza anche folta di rappresentanze dalla Slovenia, dalla Croazia. Naturalmente ve ne daremo conto nei nostri prossimi appuntamenti. Vi segnalo anche che sul sito di Radio 24, ovviamente radio24.it, nelle pagine dedicate a Euronet Plus, trovate tutti i contatti e i link per seguire anche in diretta streaming questo evento. Per ora è tutto da Trieste. Europa 24, in collaborazione con Euronet Plus.